Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Sono le 10 e 7 minuti, buona domenica da Stefano Gallarini. Comincia Il riposo del guerriero e prima di svelarvi l'argomento della puntata, a parte che chi si è connesso a Facebook sulla nostra pagina, quella del riposo del guerriero, già lo sa, però dicevo, prima di annunciare l'argomento a tutti gli altri, quelli che Facebook non sa neanche cosa sia o comunque si sono collegati, volevo ricordarvi il gioco intorno alle 11:30, Picasso in 24 minuti, per voi la possibilità di portarsi a casa il catalogo della mostra Picasso a Milano, Palazzo Reale, e il biglietto d'ingresso, e poi il diritto anche a partecipare all'ultima puntata che mette in palio un viaggio a Malaga per due persone, per cui questo è quello che vi porterete a casa. E attenzione, dovete ascoltare una canzone che contiene degli indizi legati a uno dei quadri di Picasso e dovete proprio indovinare il titolo del quadro. Ecco la canzone. Vola veloce su di noi, fotografare tu non puoi, chiede a una farfalla che gli faccia compagnia. Eccolo qua, questo è il primo, cioè l'indizio del primo quadro che dovrete indovinare. Il numero per prenotarvi 800 24 00 24, si gioca alle 11:30 e potete cominciare a prenotarvi già da adesso. L'argomento della puntata di oggi è qualcosa un po' legato anche alla canzone che abbiamo appena messo, perché è Peter Pan di Rico Ruggeri, e quindi è legato anche a questo, insomma il Peter Pan che è dentro di noi, ovvero il bambino che c'è dentro di noi, ma i bambini in generale, perché si parte da lì. Oggi parliamo di bambini, raccontando quello che gli adulti fanno per loro, con molti ospiti e anche i vostri interventi. Se volete, vi anche via sms, il numero 349 238 6666. E per iniziare, parlando di bambini, è venuta in mente una canzone, una delle più belle secondo me, di Michael Jackson, che veniva rappresentata proprio da bambini provenienti da tutto il mondo, ognuno vestito con il costume della sua nazione. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place, heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. Strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel, there are dreams to stop existing and start living. Then it feels that always love's enough for us growing. Make a better world, make a better world. There are people dying. If you care enough. cambiamo il mondo, così cantava Michael Jackson con un ricco coro di bambini. Cerchiamo di costruire un mondo migliore dove vivere non soltanto per me, non soltanto per te, ma per tutta la razza umana. Questo è il testo della canzone, ho voluto cominciare così perché oggi parliamo di bambini con Mario Gardini. Ciao Mario, bentornato. Grazie. Ti abbiamo sentito la settimana scorsa, ma oggi sei ospite qua fisicamente, sei un autore anche di canzoni per bambini. Esatto. Perché noi adulti ci facciamo mille problemi ogni volta che dobbiamo cercare di parlare ai bambini, non sappiamo cosa possiamo dire, non sappiamo come formulare le domande e dare le risposte. Bisogna cercare di essere spontanei, divertenti, come sono i bambini, senza fare quello che fanno la maggior parte degli adulti, pensare da adulti come pensano i bambini. Ecco, allora tu scrivi, hai scritto e continui a farlo, sì, tante canzoni per lo Zecchino d'Oro e non esatto, soltanto, come canzoni per bambini. Apparentemente semplici, invece molto complesse, proprio perché è difficile trovare i temi dei quali parlare, il modo per parlare di quei termini. I termini, tutto quanto, insomma, bisogna stare molto attenti ai messaggi che si danno. I filtri sono tanti? Abbastanza, sì. A cominciare da noi stessi e poi comunque quando mandi le canzoni a selezioni, poi comunque molte volte ti chiedono di fare delle modifiche alla canzone, insomma si cerca anche non soltanto da un punto di vista di contenuti, anche vocali, perché magari certe parole ai bambini diventano difficili da dire o certi ritmi sono troppo veloci, insomma bisogna anche tenere conto delle casse toraciche, delle sì, capacità di canto, tutto quanto, dell'età del bambino. Mediamente, se puoi dirlo, mm-hmm, in che percentuale viene cambiato un testo fra la stesura iniziale, quella diciamo di getto, e poi quella finale, quella dipende. Poi una delle canzoni che ho fatto io, per esempio la prima, me l'hanno fatta cambiare praticamente al 50%. La prima quale sarebbe? Era Il mio fratellino a distanza, era okay, la prima volta che io scrivevo una canzone per lo Zecchino, per cui non conoscevo ancora certe dinamiche, certi, diciamo, sei stato bacchettato quindi? Ma più che altro sono stato aiutato a capire sì, cosa dovevo il fare, il meccanismo, esatto, certo. Sì. Non è facile. Il riposo del guerriero. Intanto, se avete qualche canzone, per esempio lo Zecchino d'Oro, che ancora ricordate, perché sono delle canzoni che nessuno dimentica, anche se sono passati mille anni, che è tipo Il caffè della Peppina. Volevo un gatto nero. Perché non si dimenticano queste canzoni, secondo no, te? Insomma, no, perché siamo noi vecchi o perché no? Perché le cantano anche i miei nipoti. No, ma perché esattamente come non dimentichi i grandi successi per è la adulti, stessa cosa. Sì, insomma, comunque sono canzoni che hanno segnato la vita di ecco, di hai di citato, noi, adesso prima di tornare al mio fratellino a distanza, hai citato Il gatto nero, io adoro, che a te piace molto, sì, perché diceva volevo un gatto nero e tu me l'hai regalato bianco, esatto, per cui. Però dicevi forse la prima canzone che raccontava, ma sicuramente raccontava di un bambino che voleva qualcosa di diverso rispetto agli altri, era comunque interessante per questo motivo. Il gatto nero non è mai stato vissuto bene, no, anzi, era guai, il gatto delle streghe, certo, era comunque una comunque cosa porta diversa, sfortuna, esatto, era comunque un voler uscire dal coro. Quindi cioè, dice la prima canzone per bambini che racconta una tematica che in quegli anni, siamo penso negli anni 60, fondamentalmente 70, sì, e non si toccavano, cioè si cominciavano, beh, a cercare. Prima erano forse appunto testi un po' più banali, anche se divertenti, tipo Il caffè della Peppina. Sì, che non era male neanche quello, comunque, perché era comunque una ricetta tutta particolare fuori dal comune. Ma che quelle che fanno i bambini, li farei assaggiare, esatto, i biscotti che fa mia nipote, che, infatti, cioè, che non sono mangiabili ovviamente, perché c'è dentro qualunque tipo di ingrediente. E se avete poi qualche canzone di cui magari siete curiosi o che ricordate, anche perché così la fate ricordare a noi, i messaggi 349-238-6666. Torniamo al mio fratellino a distanza. Uh-huh. A sulla IE, perché ha questo sottotitolo. Cos'è il sottotitolo? Il mio fratellino a distanza, aperta parentesi, Assulaye. Che significa? Allora, non significa nulla. Niente. È un suono che la musicista, che era Grazia Di Michele, mise mentre faceva il provino della musica. Allora, sta canzone nacque nel 2002 perché io stavo scrivendo insieme a Giovanni Paolo Fontana, che è l'autore storico con cui scrivo, che è anche un giornalista di Rai Storia, e questo stavamo facendo un disco per Grazia Di Michele, sì, praticamente quasi tutto un disco, avevamo fatto 7-8 pezzi. All'interno di questi lei un giorno decise che voleva fare una canzone per lo Zecchino d'Oro e voleva farla sul tema dell'adozione a distanza, perché lei aveva un bambino adottato a distanza. Io devo dire che rimasi perplesso, perché né mi interessava lo zecchino d'oro né mi interessava parlare delle adozioni a distanza. Però logicamente alla diva non si poteva dire di no, per cui mi arrivò questo provino assolutamente improbabile, che se vuoi dopo puoi fare sentiamolo, sentire. Sentiamolo un pelino, ma questo è il provino arrivato da grazia di Michele. Allora, la voce è quella di Grazia di Michele, in sì. Realtà il registratore era scarico. Allora, lei l'ha incisa su un registratore rotto con le pile scariche. Certo. Per fortuna, appunto, il coautore Fontana giunse insieme alla cassettina e me la cantò lui tutto il tempo. Perché non si capiva niente. Non avrei capito proprio niente. E iniziamo a scrivere questa canzone, la mandammo alle selezioni dello Zecchino d'Oro del 2002, dove non passò, ma arrivò, credo, nona. Passavano le prime otto. L'anno dopo la rimandammo e invece passò. Ma passò che io tornai a casa una sera e trovai un messaggio in segreteria telefonica del direttore artistico della UEA che mi dice: mi richiami per cortesia immediatamente. Io lo chiamai e mi disse: guardi, la canzone piace, va bene, però metà del testo va rifatta. E aveva ragione. E se abbiamo fatto sentire la canzone ai bambini, per esempio, pensano che Assulaye sia il nome del bambino, per cui lei dovrebbe trasformarmi la canzone che Assulaye è il nome del bambino o comunque un presunto nome. Mi diede altre dritte e insomma divenne molto più bambina, molto più giusta, cioè una canzone in cui questo bambino a distanza diventa una sorta di amico lontano in un mondo tutto fatto di zebre e leoni, cioè un mondo di sogno, mentre io invece l'avevo fatto un pochino più da adulti, con questo concetto che ci si può amare anche a distanza, come fa Dio, questa cosa insomma anche un po' paracule, per cui... Vabbè, però insomma allora poi ho capito che tutto sommato forse un po' più di semplicità ripagava anche di più. E in mezz'ora feci questo nuovo testo, peraltro avevo i tecnici di internet in casa, non mi funzionava internet, niente, per cui al telefono con Fontana, lui mandò la mail, non sapemmo più nulla e due giorni dopo uscì la lista delle canzoni in gara e noi eravamo in gara. Ebbe successo? Allora vinse lo Zecchino d'Argento, perché ai tempi era un po' diverso rispetto adesso, c'erano le canzoni italiane e su sette che erano ne passavano tre al primo colpo, quattro venivano eliminate, poi due venivano ripescate nell'arco della settimana e la prima classificata vinceva lo Zecchino d'Argento e noi vincemmo. Il giorno dopo, idem per le straniere, vinse una sulla guerra di Beirut, che si chiamava Il cielo di Beirut. E per tutta la durata della settimana dello Zecchino d'Oro la guerra era tra la nostra e questo cielo di Beirut. Alla fine vinse a sorpresa le tagliatelle di Nonna Pina. Sì, certo, ecco. E noi arriviamo quarti e io trovo tutto sommato che sia stato giusto così, perché va bene riservare lo spazio, l'impegno, tutto, però insomma sono bambini, sì. Hanno diritto a divertirsi, avranno tutta una vita per avere problemi di adozioni, di guerre, di tutto, ma che mangino le tagliatelle, che va meglio così. Sono d'accordo con te, però ascoltiamo un pezzetto poi della canzone come è risultata, vincitrice tra l'altro. Eccola qua, questo poi è mio fratellino a distanza. Purtroppo, scusa, apro una parentesi perché è arrivato il messaggio che non avrei mai voluto ricevere. È sempre così, quando tu non vuoi ricevere una cosa la ricevi. Okay. Allora scrive Alberto su internet, su Facebook, dice: ma è corretto iniziare la puntata del Riposo del Guerriero dedicata ai bambini con una canzone di Michael Jackson accusato più volte di abusi sui bambini? Allora, non è mai stato dimostrato. No, scusa, ma poi a parte questo, abbiamo scelto questa canzone perché racconta proprio di un mondo, cioè il messaggio è: aiutiamo aiutiamo i bambini a costruire un mondo migliore per il futuro. Questo è, e quindi di questo ci occupiamo, e non della sua vita privata. Ripeto, poi non è mai stato assolutamente, è sempre stato assolto perché non è mai stato dimostrato, esatto, niente. Per cui è una polemica veramente buttata lì, tanto per dire qualcosa, mi dispiace, però volevo rispondere perché immaginavo che qualcuno potesse aver fatto questa, perdonatemi, un po' stupida associazione. Allora, ricordo una bellissima canzone del Zecchino d'Oro, Alibaba, io non la ricordo, forse sì, però no, neanche tu, e invece mi fa ridere questa, forse una volta non c'era così tanta attenzione, e dopo 40 anni, mi ricordo ancora, la formicuzza per il gran dolore prese il fucile e si sparò nel cuore. Ma poteva esserci un testo così hard, non, diciamo. Non me la ricordo neanche questa, però se dicono così, probabilmente. Che così. È successo. Cosa hai dovuto, vabbè, a parte queste cose, ma c'è qualche parola invece che hai dovuto cambiare perché è troppo, appunto, hard, nel senso pesante per i bambini? No, singole parole no, anzi ti dirò di più, l'anno scorso che feci un test italiano per una canzone in Madagascar, e a un certo punto c'era anche la tematica di questa pianta che stava morendo, e io avevo un po' di paura a parlare di questa parola, sì. Invece il direttore artistico, la parola morte, esatto, sì, direttore artistico d'Antoniano, che è Siro Merlo, e mi disse no, guarda Mario, assolutamente invece va molto bene, perché comunque la vita, la morte piace molto ai bambini, fa parte delle fiabe, di tutto quanto, fa parte della vita, per cui è una cosa che invece va toccata perché ai bambini colpisce. Stai parlando della palma d'acqua? Esatto, la palma dell'acqua. Allora, sì. Quella palma dell'acqua ha una storia interessante, perché sì, racconta, allora, una storia di vita e di morte, però fa capire che dobbiamo anche salvaguardare, esatto, qualcosa. E no? Heal the world. No? Sì, il reward in un altro modo. Allora, questa è una canzone del Madagascar dove mi mandarono la musica da fare il test in italiano, e con appunto Siro Merlo ci pensavamo a lungo su cosa dire, perché appunto Madagascar non volevamo parlare dei lemuri, delle solite cose banali. Allora, siccome nella bandiera della compagnia aerea del Madagascar c'è questa pianta che si chiama Ravenala, che è una pianta che raccoglie l'acqua piovana per poi darla ai viaggiatori quando hanno sete e viaggiano, e allora decidemmo di usare questa pianta qui come simbolo, raccontando la storia di una bambina che in un periodo di siccità veniva mandata dal papà sui monti a cercare un ruscello, questa cosa orrenda, la cappuccetto rosso dove mandano le bambine da sole con le brocche in mezzo ai lupi, ecco, e lei trovava quest'acqua, e il torrente, mentre lei prendeva l'acqua, le cantava che le regalava quest'acqua e che lei avrebbe dovuto prenderla come dono di solidarietà e a sua volta poi darla anche a chi ha bisogno. C'è questa frase secondo me molto bella: lascia che ogni bene a tutti faccia bene. Io poi avevo scritto: altrimenti un bene diventa povertà. E invece mi è stata chiesta di cambiare, è diventata: lascia che ogni bene ci dia felicità. Ecco, beh, insomma, ecco, questa sempre, diciamo, sì, insomma, è stata un po' positivizzata. La tua polemica di fondo non funziona mai. No, non è una polemica, però è vero, se un bene condiviso è un bene, se solo per pochi diventa povertà, non per tutti. Più, certo. E poi lei, tornando a casa, trova questa pianta che stava morendo di sete, lei sacrificava la sua acqua per salvare la pianta, cantandole sempre quella canzone, e a sua volta la pianta da allora aiuterà sempre gli altri. Cioè, tutto sommato, un bel messaggio una di solidarietà. Fiamma. Il riposo del guerriero. Prendo in prestito il messaggio di Graziella, che dice: dal fanciullino di Pasqua da Peter Pan di Robin Williams, ma anche Mrs. Doubtfire allo stesso Williams, per me è importante conservare la capacità di guardare il mondo con gli occhi di un bambino. E non so appunto se funziona così, perché scrive pubblicità. Michele Tosi, ciao, bentornato. Buongiorno a tutti. Ciao Michele, quando si scrive la pubblicità per i bambini, da dove si parte? Dunque, la pubblicità per i bambini è un elemento secondo me molto divertente, molto vicino a tutto quello che Mario ha detto anche adesso con quanto riguarda canzoni, cose, buoni sentimenti. Esiste poi un codice di autodisciplina pubblicitaria molto molto preciso. Anche perché, vedi, mentre la canzone con i buoni sentimenti ci sta, la pubblicità un po' meno, nel senso che poi la pubblicità serve a venderti qualcosa. Quindi la pubblicità in fondo, è cattiva, esatto. No, ci sono, qui ho fatto un estratto, cioè faccio sott'occhio l'articolo 11, sì, dove a parte i primi due articoli che sono ovviamente da rispettare assolutamente, cioè la pubblicità rivolta ai bambini non deve violare norme di comportamento sociale generalmente accettate o compiere azioni che inducono buttarsi dalla finestra, una cosa del genere, l'hanno evitato. Perché le potrebbero replicare, ovviamente. Beh, questo è, allora, a parte gli scherzi, è una norma che viene utilizzata e censurata ovviamente anche per la pubblicità rivolta ai grandi. Sì. Poi le norme appunto del codice di autodisciplina dicono che non bisogna indurre il bambino a ritenere che il mancato possesso del prodotto significhi inferiorità, cosa che invece è il nervo della colonna vertebrale. Ma funziona esattamente così. Esattamente. Vabbè, però ovviamente non bisogna esagerare. Poi c'è sminuire il ruolo dei genitori o adottare l'abitudine a comportamenti alimentari non equilibrati. Ti sentiamo male, possiamo... Michele? Non so se sei in una zona strana perché ti sentiamo, facciamo fatica ad ascoltarti. Così mi sentite? Adesso meglio? Sì, riprova. Vai. Ok. No, dicevo di adottare l'abitudine a comportamenti alimentari non equilibrati, che è un'altra norma rivolta ai bambini che va rispettata assolutamente. Però come esperienza mia, a parte queste norme ovviamente da rispettare, c'è un modo secondo me molto piacevole, che è quello di usare jingle, allegria, solarità, molti cartoni animati vengono utilizzati nel... per spiegare giochi e coinvolgere i bambini nella pubblicità. Poi ci sono le aree protette, come potete sapere, ci sono i bollini rossi, ovviamente, quando non ci sono certe pubblicità che vanno rivolte ai bambini. Però tornando al mio vecchio amore, i jingle secondo me sono ancora una volta la cosa che ai bambini piace. Quindi concettualmente la canzone è quello che si avvicina di più ai bambini. Secondo in me genera. Sì, perché è la matrice della ripetitività, cosa che in pubblicità esiste già in automatico, però quando si ripete un jingle che contiene, infatti, in maniera bene, cioè, voluta anche a livello di marketing, tutti gli elementi della comunicazione, funziona molto bene. Facciamo un esempio, c'è qualcosa da ascoltare? Io? Sì, c'è un esempio di, non so, dalla Girella tu devi partire forse. Ma dunque, io vi ho segnalato la Girella, sì? Non tanto perché purtroppo non c'è il jingle, perché di jingle c'è Fruitella, di cui abbiamo già parlato, sì, un po' di puntate fa, che era proprio rivolto ai bambini, eccetera. Girella rappresenta un bambino molto vicino alla realtà, non pubblicitario, perché parlava dei problemi che hanno i bambini. E il genitore entra come ruolo di quello che può risolvere, un po' con la sua presenza e un po' con un piccolo dolce, per sfruttare questo momento di difficoltà del bambino, cioè di venirgli incontro. Girella è un prodotto storico e questo piccolo spot che avevamo fatto è dell'87, quindi parecchi anni, però parlava dei bambini che non vogliono mettersi gli occhiali, che hanno difficoltà a portare gli occhiali, oppure c'era una piccola adolescente che diceva una piccola bugia su quando era tornata a casa, cioè piccoli fatti di vita. Forse in quel caso non è tanto una pubblicità rivolta ai bambini, ma è ai genitori, perché è responsabile d'acquisto delle... Ecco, poi arriviamo proprio lì anche, responsabile d'acquisto. Sentiamo Girella. Cos'è tesoro, c'è qualcosa che non va? Non mi piacciono gli occhiali, io non esco più. Ma come? Ti stanno così bene gli occhiali. Vuoi la tua Girella? No. Ma lo sai che con gli occhiali è sempre più grande? Motta ha aiutato a crescere milioni di bambini con ingredienti semplici e goloso cioccolato. È la bontà di Girella e delle altre merendine Motta. Quanti anni dimostro? Con affetto, merendine Motta. Eccolo qui. Ecco, qui c'era addirittura due cose, cioè la bambina che risponde vuoi la tua Girella e dice no. Che è un fatto quasi storico nella pubblicità, per poi invece mettersi in piedi sulla sedia davanti allo specchio e guardarsi, dice quanti anni dimostro, per dire ha superato. Certo, è diventato fatto, un vezzo addirittura a mettersi gli occhiali, esatto, quindi abbiamo con la musica di Lucio Dalla sotto addirittura. Senti, appunto si diceva responsabili d'acquisto, no? Che alla fine sì, sono i genitori, quindi come funziona, certo, il meccanismo? Certo. Perché sono i bambini che influenzano l'acquisto e che in qualche modo, certo, obbligano i genitori a comprare. Infatti, anni fa c'era anche un'altra norma che non è stata più rispettata, che è quella non tanto di difendere i bambini dalla pubblicità, ma difendere i grandi dalla pubblicità fatta coi bambini e cuccioli, eccetera, eccetera. Cioè tutti quegli elementi di tenerezza, di dolcezza, che inducono ad abbassare molto le difese. Una volta era addirittura una norma in RAI che se non attinente al prodotto merceologico l'utilizzo dei bambini era vietato. Questa cosa adesso non c'è più, anche se per buon senso diciamo che viene applicata a tutti i pubblicitari più o meno. Certo, in parola, la pubblicità del metano, tu facevi un esempio dove si vede sì. la mano dei bambini come simbolo, in questo caso non è attinente, no? Quindi anche se non è attinente, è un messaggio sociale. Esatto, diciamo che lì ce l'hanno passata perché è un simbolo. Il bambino simbolo come simbolo di purezza, semplicità, l'energia pulita. È passata insomma perché c'era questo bambino che camminava con la sua tutina blu su una pista, quindi niente di una pista simbolica, avanzava illuminando di azzurro questa pista, quindi certo. Ecco Michele, è più difficile scrivere pubblicità per destinate ai bambini o comunque che usano i bambini come pubblico? Io credo di sì, perché se fatta bene, io proprio vedo con mia figlia i programmi del pomeriggio ogni tanto, eccetera, e vedo delle pubblicità terribili, nel senso tutte vertono sulla dimostrazione di come è giocabile il gioco, buona la merendina e punto. Secondo me potrebbero essere sfruttate in maniera molto diversa e molto più creativa, sfruttando la fantasia dei bambini. Poi in effetti i tempi sono stretti, come sappiamo, i soldi non ci sono mai, per cui si fanno anche delle pubblicità molto funzionali. Sì, sì, sì. Così come certo. Devo dire che le ultime della pipì a letto, devo dire più funzionale di così, ti dice esattamente a che cosa serve, per cui cioè, spiega esattamente il prodotto, quindi più che pubblicità è una presentazione di prodotto. Perché a volte vedendo anche dei giocattoli che le Barbie o certi robot che si muovono da soli, che poi mettono una striscettina dicendo il prodotto non è che funziona così, ma è pura simbolo sì. di quello che potrebbe essere la giocabilità, eccetera, eccetera. Insomma, lì si è persa un po' di creatività, è questo che stai per dire. Lo dico io. Grazie Michele. ciao, buona domenica. Ciao, grazie. Ciao, no, ciao. Per cui da copyright non può dire si è persa creatività, sennò dopo tutti gli altri copywriter si offendono. No? Ma d'accordo, io Mario. Posso dire una mia piccola esperienza sull'argomento. Mi ricordo quando feci una pubblicità radiofonica per Fanta sì. e c'era una festa, bisognava raccontare una festa. Per radio è più difficile perché puoi raccontarla solo attraverso i suoni. E a un certo punto avevo scritto meno male che non fa gli anni tutti i giorni e mi ricordo del direttore che non si dicono ste robe, scrivi che Angioletti, ma quale Angioletti, ma in che film, ma io credo che una madre che esca da una festa di 20 bambini, meno male che non fa il compleanno tutti i giorni, e invece c'è sempre questo buonismo latente. Poi alla fine tu dici che in realtà i bambini sono cattivi, ma i bambini non hanno freni inibitori, non è che sono cattivi, i bambini non hanno ancora tutta quell'educazione, quel savoir faire, quelle PR, quelle robe lì che poi alla fine nel corso degli anni vanno a limare, limitare i rapporti, comunque ti fanno dire le cose che devi dire, loro dicono quello che gli passa per la testa. Evi Crotti, buona domenica. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Evi Crotti insieme ad Alberto Magni, che è suo marito, hanno scritto un libro, A ognuno la sua casa, perché esiste il test per capire i bambini attraverso i disegni. Il disegno della casa è la partenza di tutto, Evi Crotti, no? Perché gli occhi sono, le finestre sono gli occhi, la bocca e la porta, se non mi sbaglio, funziona sì, così. Bravissimo. Vabbè, bravissimo. Semplice. E poi soprattutto la casa vista proprio a livello psicologico, cioè per il bambino è importante la sua casa, tanto è vero che almeno per il lavoro che faccio, quando ci sono i traslochi che devono cambiare la casa, soprattutto i bambini piccoli o gli adolescenti, diciamo che hanno un calo anche di rendimento scolastico, perché per loro la casa è importante, perché non solo degli affetti, per gli affetti che i genitori danno, ma anche gli amici. Quindi la casa diventa un luogo proprio di sicurezza, un luogo di protezione, dovrebbe essere. Quindi è importante vedere come la rappresentano, per esempio il comignolo sì. vuol dire che se è acceso, vuol dire che c'è affetto in quella casa, che è come perché come simbolo ha il fuoco, no? E quindi il fuoco da calore, eccetera. Se non c'è, vuol dire che c'è qualcosa. Se le finestre sono chiuse, per esempio, vuol dire che i genitori sono troppo iperprotettivi oppure assenti e il bambino non riesce a vedere la realtà, perché insomma noi dobbiamo capire che l'età evolutiva è piena di cambiamenti che il bambino deve subire malvolentieri a volte, e quindi la sicurezza che la casa dà, che poi insomma è un fattore emotivo affettivo, la sicurezza che la casa dà è importante per la crescita. Diciamo che oggi sarebbe da ritornare in quella casa, perché sono piuttosto bambini fuori casa. Ecco, Evi, volevo chiederti una cosa proprio sull'oggi, anche sul tempo che passa. Adesso, a parte chi, gli adulti che sanno disegnare bene, no? Nel senso, però se il test vale anche per un adulto, cioè quando gli si dice se disegni una casa in modo molto semplice, funziona nello stesso modo secondo te? Sì, perché poi l'adulto si dimentica di certi particolari che il test invece ha dentro come aspetto psicologico, quindi sarà magari più stereotipato, sarà più, però anche per l'adulto va bene, e noi riusciamo a capire anche per esempio il tratto, se la casa è disegnata con un certo con una certa forza, se invece i colori sono vivaci, se invece sono spenti, cioè sì, anche per l'adulto vale la stessa cosa, io lo faccio e tante volte proprio davanti al bambino, il bambino vuole che anche la mamma disegna la casa e quindi viene fuori certi problemi che ci sono. Emergono dei problemi, ecco, sì. E un'altra cosa, sì. Si può anche capire l'evoluzione, anche soprattutto affettiva intorno alla famiglia, attraverso anche l'evoluzione del disegno della casa nel corso del tempo. Ecco, tu adesso hai parlato del camino, sei stata molto chiara, le finestre, dai un altro elemento, la porta per esempio. La porta è molto importante perché è la comunicazione, come la bocca, non la bocca si immagina, cioè entra il cibo, sì. Ecco, la bocca è la comunicazione, quindi se c'è per esempio il chiavistello, se è assente la porta, vuol dire che il bambino non ha comunicazione esterna. Gli è stato proibito di uscire e comunicare magari per troppa iperprotezione, per tante paure che i genitori oggi hanno. I bambini sono più vaccinati degli adulti, certo, bisognerebbe evitare che almeno quando si mangia ci sia un po' spenta la televisione per poter parlare, questo è fondamentale. Guardi che io non demonizzo la televisione, perché ci deve essere, però non deve essere, deve esserci dei momenti intimi in famiglia dove il bambino possa capire chi è il genitore e il genitore possa capire il suo figlio. È fondamentale. Io per esempio a casa non ho mai voluto la TV nel luogo dove si mangia, appunto perché se no non ci si parlava tra noi. Ci sono molte cose da dire però anche da scoprire, quindi invito anche gli ascoltatori con e senza figli di magari imparare proprio a capire e interpretare il disegno della casa, perché racconta veramente molti elementi della vita affettiva dei vostri figli o anche di voi stessi, perché no. Quindi Evi Crotti con Alberto Magni, a ognuno la sua casa, il test per capire i bambini attraverso i disegni, edito da Franco Angeli. Grazie Evi Crotti. Il riposo del guerriero. Avevo voluto chiedere a Mario Gardini, nostro ospite qua in diretta, autore, ma non soltanto, è anche copywriter, autore anche di canzoni per bambini di successo, perché poi le tue canzoni curiosamente hanno avuto un po' la vita simile a quella dei grandi successi come quello di Vasco Rossi, ultimo a Sanremo e primo, esatto, e poi nelle Drupi, Zucchero. magari non hanno al momento, durante la settimana dello Zecchino d'Oro, non hanno particolari riscontri, e poi invece pare che durante le selezioni per i bambini dell'anno dopo i bambini si presentino tutti con le mie canzoni. Ecco, è successo con una canzone dal titolo curioso, che è Voglio chiamarmi Ugo. Esatto, allora questa canzone nasce da questo concetto: ormai ci sono sti bambini poveretti che hanno dei nomi assolutamente impronunciabili, o 54 nomi, perché fa figo, i genitori gli danno queste cose, per cui nasceva da questo concetto qui. E allora la cosa divertente, allora all'Antoniano piacque moltissimo, Ciro Merlo fece addirittura lui l'arrangiamento, fu un enorme onore, e si basò sui Green Day per farlo, che proprio voleva rock allo stato puro. La canzone non è che raggiunse altissime posizioni, perché credo arrivò sesta, era nel 2009, e invece l'anno dopo pare che tutti i bambini arrivassero alle selezioni, ecco, con gli occhi marmi, ma le bambine, ecco, soprattutto le bambine. Ma quindi c'era anche la volontà di una rottura in questo ma non senso, non so se ho creato una generazione di trans, questo non lo so. Di sicuro è una canzone carina perché è la ribellione alla prima cosa che ti viene imposta, che dalla è il famiglia, nome. Il sì, nome, non puoi sceglierlo, esatto, tu. E quindi tu e dici... per cui io la trovo una canzone molto divertente. Poi il bambino era spettacolare, e insomma io ero molto contento del risultato. La canzone recitava così: io sono nato, erano tutti a pensare a darmi un bel nome davvero esemplare, un nome che fosse da gran presidente, ma tutti sembravano roba da niente. Così mescolando il nonno e lo zio con un cugino ed un prozio, m'hanno chiamato Francesco, Gilberto, Camillo, Maria, Gerardo, Norberto. Ma io voglio chiamarmi Ugo. Ugo, vuoi mettere che sugo? Ugo, un nome che è una scheggia, un po' come me, che penso ad una cosa e ne faccio già tre. Un nome scoppiettante che appena lo dico ti va di darmi un 5 e sei subito amico, perché soltanto Ugo ti dà buon umore. Vince la squadra del cuore. È molto meglio Ugo. Ugo, di tutto quel fanciullo. Ugo, di nomi blasonati che sembrano re, anche che gli antenati, ma di certo non a me. Come mai ti è venuto in mente Ugo? Perché era corto, perché lo considero un nome non particolarmente bello in generale, cioè considerato appunto. Vuoi sapere la verità? Sì. L'idea fu del musicista Fontana, che mi disse: perché non facciamo una canzone che si chiama Voglio chiamarmi Ugo? E sì, carina. L'idea l'ebbe lui. A te Mario piace? Non tantissimo. Non tanto, no. Se avessi potuto scegliere. Ma era mio nonno, Mario avrebbe preferito Dario, già mi piaceva molto di più. Dario Mario, però insomma cambia. Sì, diciamo, poi... ecco, mi piace la M iniziale. Puoi sempre andare, a un certo punto si può anche cambiare il nome. Ma no, vabbè, ormai è molto complicato. Diventa difficile, come quando cambi cellulare poi devi avvisare tutti. Qual è il tuo rapporto con il Piccolo Principe, se ce l'hai? L'hai regalato, l'hai ricevuto? Non mi piace. Perché? Non lo so, l'ho letto che avevo già 30 anni. Giustamente. Sì, ma sì, non è un libro che mi abbia dato grandi emozioni, non so. Mario Andreose, direttore letterario di RCS Libri, buona domenica. Buongiorno. Mario, abbiamo pochi minuti, devo dire, quattro, per raccontare un po', per sapere anche da lei, perché Il Piccolo Principe non è un best seller ma un ever seller, cioè un libro che viene sempre regalato, letto, citato. Adesso è uscito, sono usciti anche diversi, una serie di cartoni animati dedicati ai personaggi del Piccolo Principe. Perché questo grande successo? Ma questo successo si spiega col senno di poi, in base ai risultati. Che il fatto che ha conquistato i lettori di tutto il mondo, di tutte le lingue, ci sono delle edizioni anche nei linguaggi più remoti e persino nei dialetti di alcuni paesi, ci sono delle edizioni deliziose in sardo o in napoletano, quindi evidentemente è un libro che è uscito dalla testa di questo avviatore un po' sfortunato, che era Antoine de Saint-Exupéry, sì, che un giorno di tristezza in America, quando era esule durante la guerra, un editore amico gli ha detto: ma perché non fai un libro per bambini così ti distrai? Lui tra l'altro continuava a disegnare nei tovaglioli, nei pezzi di carta che aveva in mano, una figura che poi diventerà il Piccolo Principe. Si vede che lui aveva concepito un personaggio un po' strano, un po' androgino, perché poi non si capiva se era una ragazza, se era un ragazzo nei primi disegni, e gli è venuto fuori così, ed è una storia, una fiaba che è diventata universale, tale rimarrà, perché evidentemente la vitalità dipende dal fatto che chi l'ha letto poi lo regala al nipote, alla sì, infatti fidanzata. Funziona così, è un meccanismo, perché comunque uno dei concetti è che bisogna avere cura delle cose, no? Fondamentalmente la rosa è questo che rappresenta. Ma secondo lei, Andreose, è più una fiaba per adulti, però, quindi che può essere non so quanto ben interpretata da un bambino? Ma nell'intenzione era una storia per bambini, perché l'editore aveva avuto una molta fortuna con la Mary Poppins e cercava altri autori per scrivere storie per ragazzi. e quindi però nella mente di Saint-Exupéry, per esempio, la rosa è una metafora amorosa che riguardava il suo rapporto in quel momento molto intenso, anche se problematico, con la moglie. Era lei la rosa, tant'è che la moglie poi ha scritto un libro autobiografico pochi anni fa in cui rivendicava di essere l'ispiratrice della rosa. Quindi è diventato un libro universale, non è né per bambini né per adulti, può essere, sicuramente i bambini però a partire da una certa età lo possono leggere, ma lo leggono benissimo anche gli adulti, ecco, sì, i puri di cuore. Ecco, credo che infatti sia così, insomma, sia da leggere più da adulti che da bambini, dove invece gli elementi sono interpretati in modo un po' diverso. Tra l'altro ne è stato scritto una sorta di seguito, vero Andrea? Proprio in questo periodo. Ma gli eredi che sanno che fra qualche anno, fra pochi mesi, il Piccolo Principe diventerà di pubblico dominio, perché sono 70 anni dalla morte, sì, dell'aviatore che è caduto nel Mediterraneo nel 44, hanno pensato, dice, ma andiamo magari utilizzando anche degli spunti narrativi che sono più vicini ai ragazzi d'oggi, quindi lo stesso personaggio, grosso modo, con delle fattezze legate alle tecniche del pixel, però è sempre un piccolo principe, sì, con delle cose, degli ingredienti narrativi che sono più vicini a quello che oggi i ragazzi vedono al cinema e alla televisione. Certo, quindi, anche se secondo me poi la partenza resta sempre quella del, il fascino è sempre la partenza, le altre cose non so, un punto di domanda io ce lo metterei. Grazie Mario Andreose e buona, prego, domenica, direttore letterario di RCS Libri. Continuiamo a parlare di bambini per chiudere poi con Mario Gardini. Mario, abbiamo saltato proprio come se non esistesse, ma in realtà esiste, come Gianni Rodari. Mm-hmm. I bambini non si possono parlare di Gianni, no, Rodari. Quanto l'hai letto tu, Rodari? Parecchio. Poi ho anche amato moltissimo Ci vuole un fiore, perché è un po' un insegnante in fondo di tutti noi in questo senso. Poi l'utilizzo delle parole, le rime, le filastrocche, riuscire a raccontare dei temi anche importanti in modo veramente molto molto semplice, questa è la forza. Infatti ancora oggi i suoi testi funzionano, piacciono, allora, i bambini si ricordano. Tu hai scritto una canzone che però con le parole ha senso. Sì, si chiama Giochi di parole, era dello Zecchino d'Oro 2008 e arrivò seconda per un punto dietro alle piccole cose belle. E è una canzone appunto dove c'è tutto questo gioco che attraverso il cambio delle parole tu puoi modificare la realtà. Allora io vorrei così. Era un po' Como nel Comò, scusami, esatto, no? Perché esatto, i cittadini di Como con un accento in più si ritrovavano chiusi in un cassetto, esatto, questa è la filastrocca di Rodari. E questa è la potenza delle parole, sì, del saper utilizzare. E, per esempio, ecco, mi piace citare una frase che mi disse un giorno Franco Fasano, che è un grandissimo, sì, autore di musica, che io conobbi appunto all'Antoniano, e abbiamo iniziato a collaborare, adesso abbiamo fatto anche delle canzoni insieme, però per adulti per il momento. E mi ricordo che un giorno gli raccontavo dei problemi di lavoro e lui mi disse: vedi Mario come siamo fortunati, noi abbiamo la musica in cui rifugiarci. E io utilizzo questa frase anche per le parole, come siamo fortunati, basta cambiare due parole e cambiamo tutta la realtà che abbiamo intorno. L'importante è saperle usare bene. Ecco, come in questo caso, sentiamone un pezzetto. Con una torta. Ecco, tra l'altro la canzone inizia con torta, dico bene, sì. Che diventa torta, perché se tu metti l'accento sull'O fai una prova completamente diversa, fra l'altro, per cui devo dire che è molto divertente. Piacerà anche come introduzione questa canzone all'ospite che abbiamo tra poco, che è la nostra glottologa, Francesca Dragotto. Allora, Mario Gardini ha pronta per voi una canzone per il prossimo Zecchino d'Oro, che però non può rivelare. No, assolutamente. Ma un tema, dici che è un tema, allora, mai toccato. È il 55esimo Zecchino d'Oro e questo tema viene trattato per la prima volta. Vediamo cosa succede. Allora, incrociamo le dita. Intanto ti ringrazio molto. Grazie per essere intervenuto. E io volevo rispondere anche a un messaggio che è arrivato. Dice: non c'è soltanto lo Zecchino d'Oro, ci sono molte realtà per i bambini. Lo sappiamo, ci sono moltissimi gruppi di bambini che cantano. I cori, sì. Esatto. Però insomma, lo Zecchino d'Oro rappresenta un po'. È un po' Sanremo della musica, esatto. Insomma, è il più famoso. Poi questo non toglie niente a nessun altro. Anche perché poi credo che anche i vari gruppi che cantano canzoni di bambini in giro peschino attingono anche da lì, per la maggior parte le canzoni dello Zecchino d'Oro, quindi fondamentalmente si parte, c'è, questo c'è tutta questa galassia di Chicco e Doretta, che tutti sono tutti questi piccoli cori d'Italia che fanno comunque riferimento all'Antoniano. I Doremissimi ci hanno anche citato, sì. ecco.it, c'è anche il sito. Grazie per la segnalazione, Mario. Un po' ti invidio, perché mi piacerebbe molto riuscire a scrivere canzoni per... Io ho scritto tante canzoni di Vita Mia Teschi, ma non sono mai belli, non sono capace. Proviamo a fare una a quattro bambini. Proviamoci, magari ci riusciamo. Come no, grazie. Mario Gardini, grazie ancora. E adesso, appunto, il momento di Francesca Dragotto, ancora parlando di parole. Senti chi parla. Senti chi parla. Sentiamo chi parla, sicuramente la nostra glottologa Francesca Dragotto. Ciao Francesca, ben ritrovata, buona domenica. Grazie Stefano, buongiorno a tutti. Allora, ci ricolleghiamo alla puntata della settimana scorsa per dire che... Bene Monti Bis, non perché si tratti di propaganda, ma perché la virata che ha caratterizzato la comunicazione del presidente Monti fa pensare che appunto ci sia perlomeno la presa in considerazione di un'ipotesi di rilancio anche in termini elettorali. Ecco, come mai sei arrivata a questa conclusione, Francesca? Ho analizzato una serie di discorsi, dei primi ho parlato la scorsa settimana, si tratta di discorsi molto strutturati, molto simili alla lingua scritta anche quando parlati, quindi si tratta di una sorta di scritto recitato, discorsi molto articolati dal punto di vista sintattico, ben calibrati, incalzanti, ricchi di una terminologia tecnica diventata martellante per via della forte ripetizione che ne hanno fatto i mezzi di comunicazione. Cito soltanto ormai il tormentone spread, lo stesso Monti ne parla dicendo il famoso spread, oppure spending review, un anglismo non necessario e che inoltre viene anche utilizzato con un significato che differisce da quello che avrebbe in inglese, perché in italiano non corrisponde all'analisi della spesa, bensì direttamente alla previsione di tagli della spesa. Ecco, solo che dire tagli della spesa fa un po' paura, invece spending review più morbido, quello un certo, po' senso. Poi non si capisce, quindi la distanza data dall'anglismo produce un'attenuazione che consente una sorta di rilassamento dell'ascoltatore, che ignaro si vedrà invece poi praticare dei tagli, degli ulteriori tagli. Allora sentiamo il presidente Monti in una puntata discussa di Porta a Porta di qualche tempo fa. Un senatore ha usato, rivolgendosi direttamente a me nell'aula, l'espressione che mi ha, devo dire, colpito. A lei abbiamo chiesto di salire su un treno in corsa che stava per deragliare. Francesca. Sì. Il palcoscenico è quello prescelto dal Presidente del Consiglio per parlare della necessità di introduzione dell'IMU nel quadro più ampio della politica del suo esecutivo. Precedono il passaggio che abbiamo sentito dei riferimenti appunto al famoso spread, un devo essere più sincero che serve per ancorare il discorso ai destinatari, una sorta di apertura che viene introdotta da Monti come autocorrezione in risposta a Bruno Vespa, che gli chiede quali azioni gli siano risultate più gravose da quando è in carica. Il prima battuta Monti risponde tutto e nessuno, in seconda battuta, proprio per risultare anche più umano, dice devo essere più sincero. Passo al passaggio che ci interessa. Ieri sono andato alla Camera e al Senato a spiegare le nostre decisioni di domenica, questo di domenica è sottolineato perché appunto si tratta di una cosa inusuale. Un senatore ha usato, rivolgendosi direttamente a me, l'espressione a lei abbiamo chiesto di salire su un treno in corsa che stava per deragliare. Si tratta di una metafora più esattamente strutturale. Perché? Perché attinge all'esperienza concreta, quindi non richiede un grande sforzo cognitivo, quindi uno sforzo di comprensione da parte dei destinatari. In generale possiamo notare in questo passaggio che abbiamo sentito poche false partenze, qualche ripetizione, ma molto poche all'inizio del discorso, ieri. E, per chi avesse in mente la scena che può essere facilmente recuperata attraverso internet, una sorta di punteggiatura prodotta dalle mani che accompagnano il discorso. Monti continua dicendo il mio governo deve fare un equilibrismo e introduce poi le parole chiave del discorso, che sono equità, ritornerà spesso a parlare di equità nei confronti delle generazioni future, e in un passaggio successivo ritorna a una pratica piuttosto intensa di quella figura retorica di cui abbiamo parlato, il tricolon, che consiste nell'organizzazione per tre membri del proprio discorso. Quando si dice riforme strutturali, il mondo ci chiede, i mercati ci chiedono, ma anche il buonsenso ci chiede di cambiare i meccanismi perché siano più ragionevoli e più equi, bene, queste sono riforme strutturali. Ecco la legge del 3 di Monti che torna continuamente, perché anche metricamente ha un senso. Tra l'altro lui tra una parola e l'altra ci mette sempre una pausa molto lunga, divide tutto, sembra una sorta di telegramma, ma adesso sentiamo un altro passaggio sempre del presidente Monti. La ripresa oggi non la si vede nei numeri ancora, salvo qualche barlume, ma io invito a constatare che la ripresa, se riflettiamo, è veramente dentro di noi. È un atto di fede, quindi, no? In qualche modo, è dentro di noi la ripresa. Sì, ma naturalmente non mi interessa per i contenuti, ma mi interessa perché segna un cambiamento, ho usato il termine virata non a caso, una virata notevole rispetto alle modalità comunicative che hanno caratterizzato non soltanto i discorsi di cui abbiamo parlato, ma in generale la produzione discorsiva di Monti. È proprio il fatto che ci siano così tanti riferimenti, così tanti rimandi ad una situazione che è per la prima volta forse emotiva, prima ancora che economica, che mi induce, magari sbaglio, ma mi induce a ipotizzare che perlomeno ci siano le precondizioni, che ci sia anche solo la presa in considerazione di una candidatura alle prossime elezioni. Il fatto che per la prima volta, o comunque si tratta di una delle prime volte, questo è coinciso con la ripresa di settembre, Monti abbandoni il discorso ammantato di tecnicismi e di riferimenti alla condizione economica per parlare, addirittura per fare delle considerazioni di sapore quasi intimistico, anche se i numeri non lasciano ancora trasparire ciò, la ripresa è dentro di noi, appunto con le pause che mettono in cornice, che mettono in evidenza ciò che vuole che passi e che rimanga. Bene, questo mi fa pensare prima di tutto ad una nuova ulteriore fase della comunicazione montiana, ad una fase in cui nel tecnico Monti si fanno strada anche espressioni facciali prima assenti. Basta guardare le interviste, le conferenze stampa per rendersi conto di una maggiore maggiore gamma di espressioni sul viso del Premier. Chiudiamo ricostruendo una sorta di anello. Dai numeri come indice dello stato di rischio siamo passati ai numeri che non lasciano intravedere una ripresa, almeno al momento, ma la ripresa c'è, la ripresa è dentro di noi. Quindi secondo me si tratta della costruzione di una umanizzazione mediatica che sa di avvicinamento ai cittadini in vista di una futura ricerca di riscontro. Grazie Francesca, sei stata molto chiara. Se avete qualche curiosità scrivete a guerriero@radio24.it, anche qualche frase che volete venga analizzata, qualche frase di personaggi pubblici ovviamente, e poi non vi dimenticate il blog che segue Francesca, che è tuttopoli.com. Ci sentiamo la settimana prossima, ciao. Ciao. Adesso è il momento modo di parlare di videogiochi, spesso legati al mondo dei bambini, ma in realtà sempre di più legati al mondo degli adulti. Video game, video game. Parliamo di una mostra, infatti, da ieri al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano e poi si sposterà al Museo del Fumetto, al Wow. C'è Deborah Ferrari, che è la curatrice di questa mostra. Deborah, ciao, buona domenica. Ciao Stefano, buona domenica a tutti. Allora, parliamo di Art Revolution, una mostra dedicata ai disegni di Assassin's Creed, che è un gioco che ha avuto grandissimo successo. Ne abbiamo parlato anche diverse volte nel corso di questo spazio dedicato al mondo dei videogiochi, perché nasce da una storia, tra l'altro è vera, perché il secondo videogioco si ispirò alla storia dei pazzi. Siamo quindi nella Firenze rinascimentale e il gioco è stato sempre accompagnato da un grandissimo lavoro artistico, e quindi voi avete voluto dare spazio proprio a questo lavoro. Deborah, a te. Sì, effettivamente. Innanzitutto sai che noi siamo fissati con il fatto di poter far capire al pubblico che la game art, quindi anche la concept art dei videogiochi, è l'arte del XXI secolo. Ecco, scusami, ricordo una mostra che avete curato alla Biennale di Venezia, vero? Sì, esatto, abbiamo portato la game art e i videogiochi proprio fisicamente alla Biennale di Venezia, sdoganando il medium artistico e alimentando il dibattito tuttora in corso su arte e non arte, come era successo 100 anni fa per il cinema. Quindi per Assassin's Creed abbiamo fatto un lavoro di questo tipo. Abbiamo analizzato insieme a Ubisoft, perché veramente senza la loro collaborazione di Ubisoft Italia sarebbe stato impossibile accedere agli archivi e a tutti i lavori artistici, quindi anche questo è un elemento critico e storico che entra in questa nuova forma d'arte. Abbiamo avuto accesso a migliaia di artwork e da questi abbiamo potuto selezionare quella concept art che significa qualcosa anche all'interno del mondo delle arti contemporanee e ovviamente rappresenta qualcosa di esclusivo rispetto a tutti gli episodi usciti di Assassin's Creed dal 2007 a oggi, quindi dal primo, come tu giustamente hai citato, il 2 e Brotherhood, che si svolgono interamente nelle nostre città rinascimentali italiane, anzi hanno fatto conoscere al mondo dei giocatori, dei 38 milioni di giocatori, sì. Firenze, Roma, Venezia e anche tutti i nostri dintorni senesi. E su questo abbiamo operato una scelta che ha prodotto 200 opere, di cui un centinaio esposte al Museo della Scienza e un centinaio verranno esposte al Wow, con due tipologie differenti. Al Museo della Scienza tele, legni, crystal, affreschi addirittura, e al Wow ci saranno i comics, il codice di Altair, che è una chicca che non è mai stata esposta, e opere anche di artisti contemporanei italiani come Samuele Arcangeli, Massimo Giuntoli, l'opera di un brooklinese di Edward Palmquist, che ha fatto un filmato molto particolare, e all'inaugurazione abbiamo avuto Ludovic Ribardier della Ubisoft. Ecco, quindi in questa mostra non ci sono soltanto gli artwork, ovvero il lavoro che è stato fatto per poi realizzare il videogioco, ma anche c'è il lavoro anche di artisti che sono basati sulla storia e sul mood, diciamo così, della storia per fare delle proprie opere d'arte, ho capito bene? Sì, assolutamente, c'è Samuele Arcangeli, che è un pittore italiano varesino, lavora da diversi anni sull'idea del ritratto al giocatore, ritratto all'artista, al concept artist e al ritratto del personaggio. In Biennale aveva portato i ritratti di Miyamoto, Wright, Pajitnov, eccetera. E quest'anno ha realizzato un piccolo labirinto, una stanza in legno che si chiama la macchina dei ritratti, cioè il pubblico entra in questi ritratti alti 2 metri e accosta le identità dei protagonisti del videogioco, Desmond Miles, Ezio Auditore e Altair, per dirti. Massimo Giuntoli ha fatto un architetturale di luci con elaborazioni video tratti dai video di Assassin's Creed, mentre Quist e poi Nocurve, perché abbiamo anche l'artista Nocurve Tape Art, hanno fatto dei tributi al mondo di Assassin's Creed. Però le opere esposte sono proprio pezzi unici creati dagli artisti Ubisoft, dei concept artist, che all'interno del videogioco hanno il compito di leggere la storia e creare in un pezzo solo tutta la sensazione di quella narrativa, che poi servirà agli artisti 3D per fare il videogioco. Sì. Quindi è un mondo, è un'industria artistica, ma è sempre un'arte unica. Non in serie, comunque sono pezzi unici. Ecco, tra l'altro appunto è proprio interessante capire come il videogioco, ne abbiamo già parlato tante volte, nasce spesso da dei romanzi, ha dato vita a romanzi, e romanzi hanno dato vita a videogiochi, a film e anche ad arte figurativa, come in questo caso. È interessante quindi vederli anche sotto questo aspetto. È bello quello che tu dici, anche il cinema all'inizio aveva difficoltà ad essere accreditato come arte. Addirittura i Lumière pensavano di aver fatto qualcosa così di divertente, ma che non potesse avere un seguito, e invece poi vediamo cos'è successo. Per cui dice anche il videogioco può essere questo. Quindi comunque invitiamo a vedere chi potesse la mostra. Esiste comunque anche un libro dedicato alla mostra che si può ovviamente acquistare, chi non potesse vederla, e anche ai non appassionati di videogiochi, semplicemente gli appassionati d'arte tout court. Sì, infatti siamo molto felici che per la seconda volta Schira Editore ha inserito nel proprio catalogo di arte, e in mezzo ai famosissimi nomi troviamo anche il videogioco di Assassin's Creed, e su questo libro Schira, con i contributi anche di Alberto Coco, che come hai appena detto tu passa attraverso tutte le visioni che ha offerto il videogioco, quindi dai comics al video, prossimamente film e romanzi, Riccardo Hoffman che parla di arte e tecnologia, Salvatore Fallica che crea un nuovo genere letterario, lo speed telling, come lo speed painting degli artisti, e quindi c'è narrato 300 ore di gioco in 5 pagine. Salvatore Mica offre uno spaccato con un dizionario molto tecnico su tutti i videogiochi usciti e che cos'è la videoludica, e io e Luca Traini abbiamo offerto la parte curatoriale con la critica storica e la critica artistica. Grazie Deborah. Allora, al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano e poi al WOW per la mostra Assassin's Creed Artwork. Buona domenica ancora. Ciao. Grazie Stefano. Ciao, grazie. Ciao. Prendiamo questi 3 minuti poi, prima di passare a Picasso in 24 minuti, che vi permette di portarvi a casa il catalogo della mostra di Picasso, il biglietto d'ingresso, e partecipare poi alla puntata finale che mette a disposizione un viaggio per due persone a Malaga, per parlare con Stefania Migliorino e tornare a parlare di bambini. Stefania, buona domenica. Buona domenica anche a lei. Allora, Stefania Migliorino è un insegnante e ci parla di un'iniziativa che ha coinvolto dapprima una scuola vicino a Milano, e poi grazie al fatto di aver un po' rivoluzionato il mondo del teatro nella scuola, coinvolgerà presto tante scuole in Italia. L'iniziativa si intitola Ingresso nel Vuoto. Stefania. Sì, salve. Allora, vabbè, io penso che il nostro sia un progetto unico in Italia. Tutto è partito l'anno scorso da un gruppo di genitori, di insegnanti che avevano voglia di fare teatro. La nostra è una scuola che crede tanto nel teatro come forma di aggregazione. E il nostro desiderio era proprio quello di conoscersi, di conoscerci meglio e di fare qualcosa con i nostri bambini, perché guarda, attualmente penso nelle grandi città, ma come nei paesi, il problema è che i genitori hanno poco tempo da passare con i figli, tra la scuola, il lavoro, le attività sportive e via dicendo. Per cui noi volevamo creare un momento in cui i genitori potessero fare teatro con i loro figli. E poi, già che c'era, dobbiamo raccogliere anche un po' di soldi per la nostra scuola, perché fanno sempre comodo. Certo. E grazie all'aiuto di un papà che è anche regista e autore teatrale, che abbiamo coinvolto, catapultato in questa avventura, abbiamo iniziato a preparare questo spettacolo che appunto si chiama Ingresso nel Vuoto. E come appunto Cesare, questo papà regista, dice, tutte le volte che mettiamo in scena questo spettacolo, non pensate ad una storia, pensate di essere in una piazza e di vedere l'umanità che passa, e infatti è uno spettacolo in cui non si parla. Personalmente la sto trovando un'esperienza molto coinvolgente. Ecco, anche perché, scusa Stefania, scusa se interrompo, il fatto è che coinvolge non soltanto gli alunni, ma anche i genitori, anche gli insegnanti e le persone che lavorano nella scuola, per cui i bidelli, i segretari, tutti, chiunque può partecipare. Guardi, siamo un 150 persone circa, tra bambini, genitori, nonni, bidelli, insegnanti che si ritrovano. Noi ci siamo ritrovati l'anno scorso da gennaio a fine anno tutti i venerdì sera fuori dalla scuola ed era bellissimo vedere queste persone che arrivavano con i loro oggetti di scena, con i loro costumi, entrare a scuola, fare le prove e vedevi la gente che ci vedeva passare con la faccia con aria interrogativa perché diceva ma questi dove stanno andando alle 9 di sera in una scuola tutti questi bambini con i genitori con pezzi di legno, costumi e via dicendo, è stato veramente bello. Ecco, quindi diciamo questa iniziativa che ha avuto una menzione speciale da parte del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, appunto perché per la prima volta la scuola veramente ha coinvolto tutti e mano a mano Ingresso nel Vuoto si sta proponendo in altre scuole in tutta Italia, quindi anche le scuole che volessero così metterlo in scena potranno farlo, informando su internet trovate tutte le informazioni. Ti ringrazio molto Stefania, ecco, e complimenti. Dimmi, vai. L'ultima cosa sì. che volevo dire è che adesso il 13 ottobre parte dei soldi che abbiamo raccolto li porteremo a Pieve di Cento, sì. che è un paese dell'Emilia Romagna che è stato colpito dal terremoto dove la scuola elementare è andata distrutta, e oltre ai soldi porteremo il nostro spettacolo. Ecco, per cui appuntamento, ci piaceva questa cosa. Appuntamento a Pieve di Cento il 13 ottobre nel pomeriggio. Ecco. Quando verranno inaugurate le scuole nei moduli e noi porteremo il nostro spettacolo. Brava Stefania, a te e a tutti gli altri. Buona domenica ancora. Picasso in 24 minuti. Questo è il tempo che avete a disposizione per portarvi a casa il catalogo della mostra Picasso, capolavori dal Museo Nazionale Picasso di Parigi, in mostra a Milano Palazzo Reale fino al 6 gennaio, il biglietto d'ingresso ovviamente, e poi la possibilità di portarvi anche a casa nell'ultima puntata un viaggio a Malaga per due persone. Quello che dovete fare è molto semplice, ascoltare la canzone che tra poco vi proporrò, contiene un indizio nel titolo, nel cantante, che vi porterà al titolo di una delle opere di Picasso. Se indovinerete il titolo dell'opera vi porterete a casa catalogo e biglietto d'ingresso. Il numero per partecipare è 800 24 00 24, ed ecco il primo quadro da indovinare. Dicono tutti che non c'è, ma io che l'ho visto so dov'è. Forse non immagini, ma non è difficile comprendere. Lasciato in libertà, vive lontano, non è qua, forse si nasconde in mezzo agli alberi. Vola veloce su di noi, fotografare tu non puoi, chiedi a una farfalla che gli faccia compagnia. Ti abbandoni, liberi le mani, non ti piace stare sveglio. Saremo mai, ti addormenti, dimmi che lo senti, che ti sta toccando piano, piano quanto vuoi, come le carezze che non hai. Eccola qui la prima canzone, il primo quadro da indovinare, Luis Enrico Ruggeri di Peter Pan, Carla da Cuneo, buona domenica. Buongiorno dottor Stefano Gallarini. Buongiorno Carla. Sono Carla da Cuneo. Allora, c'è un quadro di Picasso il cui titolo sì. ha a che fare con la canzone che abbiamo appena sentito. Non posso aiutarti molto. Visto. Ecco, l'hai anche visto. Che quadro è? Il flauto di Pan. Brava Carla, il flauto di Pan, olio su tela, sì. Ed è bellissimo. Adesso andrei a rivederlo. Pronto? Allora se vorrai. Visto sì, che spero proprio di sì. Dimmi. Ah no, spero proprio di sì, hai detto. Ah ecco, no, avevo capito un'altra spero cosa. Spero proprio di sì. Infatti sì, sarà così perché porterai a casa il biglietto d'ingresso alla mostra Picasso a Palazzo Reale a Milano, il catalogo della mostra e poi parteciperai automaticamente all'ultima puntata, quella di ottobre, per cercare di vincere invece il viaggio a Malaga per due persone. Carla, complimenti. Bene. Grazie. Sono anch'io per te, grazie, buona domenica. 800 24 00 24, fra poco un altro quadro, però prima volevo volevo farvi ascoltare la direttrice del Museo Picasso di Parigi e curatrice anche della mostra di Picasso a Milano, si chiama Anne Baldassarri, che ci racconta come in realtà siano proprio i bambini, visto che il tema di oggi erano i bambini, a apprezzare di più alcuni quadri di Picasso. Alors, je pense au contraire que Picasso est absolument bien compris par le grand public. Io penso che Picasso sia molto ben compreso dal grande pubblico, in modo particolare dai bambini, perché l'opera di Picasso è di per sé una lingua. Lui considera l'arte come una lingua. La lingua è anche fatta di segni ed è la lingua che ci appartiene prima ancora di quella parlata. Quindi c'è questo atteggiamento materno, molto familiare, e i bimbi capiscono quasi perfettamente lo sforzo che ha fatto Picasso. Questo lo abbiamo visto nel corso della mostra in tutti i paesi del mondo. A differenza degli adulti e anche a differenza di certi intellettuali o persone di cultura che hanno un atteggiamento troppo strutturato, troppo culturale e quindi tagliano il significato più recondito nel profondo dell'opera di Picasso, i bambini capiscono Picasso attraverso le pulsioni e l'istinto, perché Picasso ci parla in una lingua che non è erudita. Questo era quello che lui voleva fare. Noi rispettiamo l'opera di Picasso nella sua presentazione. Je m'arrêtais parce que on reprendra. Allora, torniamo invece al nostro gioco. Dovete indovinare il prossimo quadro e questa è la canzone che dovrebbe, anzi vi deve portare alla soluzione. Cielo grigio su, cielo grigio su. Altro indizio, un altro quadro a indovinare, il titolo di un'opera di Picasso, c'è Stefania da Genova. Stefania, buona domenica. Sì, buona domenica. Ciao Stefania. Tu sapevi... Mi ero prenotata per l'altra per domanda. Il quadro precedente, esatto, immaginavo. Esatto. Ma... sì, infatti, quindi, e l'avevo anche indovinato, pazienza. Sono contenta comunque di partecipare. Posso dire l'Arlecchino, ma so che non c'entra niente. Quindi... Questa, avevi riconosciuto questa canzone? Sì, che, sì, certo. Sognando la California dei, esatto, Dick Dick. Sì, sì. Però non, in questo momento veramente sono super spiazzata e non mi dice niente. Mi dispiace tantissimo. Anche a me, Stefania. Cosa facciamo? Ci salutiamo? Sì, grazie. Complimenti per la trasmissione, perché seguo sempre e sono un'affezionata di Radio 24. Grazie, Stefania. Buona domenica. Bene. Grazie altrettanto. Ciao. Meno male che lo è ancora, se non ha portato a casa il premio, ma è rimasta la radio preferita. Non si è arrabbiata. Luisa, la provincia di Milano. Ciao. Sono io. Luisa, allora, questo, un'altra opera di Picasso che ha a che fare indubbiamente con la canzone che abbiamo appena ascoltato, Sognando la California e Dick Dick. Il sogno. Non è il sogno. Mi dispiace, Stefa. Luisa. Niente. Mi dispiace. Ciao, buona domenica. Ciao, grazie, grazie, grazie. Se volete anche riascoltare un pezzetto della canzone potete chiederlo, possiamo anche farvelo riascoltare. Elisa, dalla provincia di Genova. Pronto, Elisa? Ciao. Ciao. Avevo pensato la stessa opera, però può c'entrare il fatto che il suo studio si chiamasse la California? Elisa, sai che sei vicina, ma non è quella la risposta, perché non è uno studio, è proprio un'opera. Elisa, che rabbia, però hai aiutato sicuramente chi verrà dopo di te, Elisa. Perfetto, grazie. Ciao. Angelo da Milano. Sì, nervoso. Pronto. Elisa era lì con la soluzione. Angelo, mi dici buongiorno a te. Il titolo dell'opera di Picasso che fa riferimento all'indizio che abbiamo ascoltato, la canzone di Dick. Sì, secondo me può essere Celestina. No. No. Guarda che la ragazza di prima ha detto proprio una cosa, ha detto quasi il titolo dell'opera. Ma vabbè, Angelo, mi dispiace. Va bene. Ciao, grazie. Grazie tanto. A te. Va. Nadia dalla provincia di Bologna. Buongiorno Nadia. Buongiorno. Ciao Nadia. Avevo telefonato per là. Anche tu, ecco. Quindi questa, non so, dico Guernica. No, non è Guernica, non è Guernica. Pazienza. Forse è il quadro più famoso di Picasso, no, non è lui. No. Grazie, mi dispiace. Ciao, grazie. Vi ricordo il numero ancora, 800 24 00 24. Ridico che la ragazza di prima, Stefania da Genova, Stefania, ha detto proprio quasi il titolo dell'opera. Lei però parlava di uno studio, invece io parlo proprio dell'opera che è in esposizione proprio al Palazzo Reale con la mostra Picasso. Sante, dalla provincia di Vicenza, buongiorno Sante. Buongiorno, no, sono fuori perché avevo preparato per un'altra opera. No, potrebbe essere, ma non credo, sulla spiaggia della California. C'è un titolo comunque, dovrebbe essere. No, andiamo con la viabilità e poi torniamo, grazie. Picasso in 24 minuti. Certo, bastava ragionare, no? Elisa di nuovo, ciao, dalla provincia di Genova. Ciao Elisa. Allora, Elisa ha detto studio, io quindi pensavo che tu parlassi di uno studio. Sai quando si fa sai che a volte nelle mostre sono esposti gli studi per poi arrivare all'opera definitiva. E invece tu intendevi dire studio traducendo la parola francese atelier, allora sì, l'atelier. Io proprio che si chiamava così. No, è l'atelier della Californie. Sono arrivato dopo e dico, ma forse Elisa intendeva dire studio nel senso atelier e non studio. L'emozione mi ha fatto perdere la parola. Perché purtroppo c'è, vabbè, per noi, sai, in italiano lo studio di un'opera è il lavoro che si fa prima di metterla proprio in opera, no? In questo senso, ecco, quindi ti avevo fraintesa. Brava, brava Elisa, e ti porti a casa ovviamente il catalogo e il biglietto per l'ingresso alla mostra, e parteciperai anche alla puntata finale per il viaggio a Malaga. Grazie ancora e scusami, complimenti. No, grazie a voi, assolutamente. Ciao, buona domenica. Ciao. Allora, c'è anche il nostro Luca Scarlini, scrittore, ci racconta l'arte di Picasso, e vi faccio ascoltare questa curiosità che arriva dalla sua voce. Miguel Bosé, bambino, dipinge i quadri di Pablo Picasso. Miguel Bosé, da bambino, andava alla villa di Picasso insieme alla sorellina, visto che la madre, Lucia, aveva un'amicizia con il gruppo intorno a Picasso e C. Il pittore prendeva dei pennelli del colore e dava ai bambini da fare dei piccoli angoli dei quadri. Miguel Bosé aveva come compito sempre quello di fare dei piccoli quadrati o triangoli rosa. Molti anni dopo, in una grande mostra a Parigi, al Beaubourg, Miguel Bosé ha visto uno dei quadratini che aveva dipinto da bambino e, in un certo senso, ha dichiarato di essere orgoglioso di aver contribuito a un quadro di quelli più famosi dell'ultimo Picasso. Andiamo avanti, 800 24 00 24. Monica da Milano, buongiorno. Monica, buongiorno, ecco, buongiorno. Però devo farti ascoltare la canzone che ha a che fare col prossimo dipinto che devi indovinare. Ascoltala bene perché secondo me riesci a rispondere. Eccola qua. Avevi ragione tu, mia cara, la vita non dura mai una sera, il tempo di una follia è breve, fugge via. E poi cosa rimane dentro noi? Questa celeste nostalgia, questo saperti da sempre ancora, ancora mia, mia. Nel profondo non si offende, si spegne se il caso poi riaccende. te. Passione violenta sì, comprendimi amica mia, tu vuoi tutto normale fra di noi. Cara celeste nostalgia, dolce compagna di storie d'amore, sempre mia, sempre mia. Allora Monica, questo è l'indizio che ti dovrebbe portare alla soluzione del... La Celestina? Brava Monica, l'aveva citata un ascoltatore prima, tra l'altro, sì, proprio sì, sì, è questo che ti ha aiutato, Monica? No, non questo in particolare. Io sapevo anche la precedente, perché aveva aiutato una ragazza di Genova dicendo tutto. Perché in fondo lei voleva dire io avevo quello. Avevo chiamato per l'atelier, poi questa seconda è stata ancora più facile. Ecco, ti è andata bene lo stesso, brava. Per te il catalogo e il biglietto d'ingresso e la partecipazione all'ultima puntata. Grazie Monica. Grazie, ciao. Buona giornata, ciao. Altro quadro da indovinare per voi, altro catalogo e biglietto, ed ecco l'indizio. Musica è guardare più lontano e perdersi in se stessi. La luce che rinasce, coglierne i riflessi. Su, pianure azzurre si aprono. Ed io mi accorgo che tutto intorno a me, musica è la danza regolare di tutti i tuoi respiri su di me, la festa dei tuoi occhi appena mi sorridi. Famosa traccia di Ramazzotti, nata con Bocelli in questo caso, musica è, questo è il titolo della canzone, voi dovete dirmi invece l'opera di Picasso. Marisa, dalla provincia di Bergamo, buona domenica. Sono io, buongiorno, io sapevo molto bene le altre due opere. Ma anche questa, non c'è il 2 senza il 3, facile. Purtroppo, musica è, so, senti. Con la musica posso arrivare ai tre musicanti? Non è i tre musicanti. Non è i tre musicanti. Rabbia. Non ho decifrato correttamente la canzone. Mi No, beh, però insomma, i tre musicanti sarebbe andata anche bene, ma non è quella, non importa. Questa. Grazie, però. Grazie. Ciao. Grazie. Angela da Como. Pronto? Angela, buongiorno. Buongiorno. Allora, Angela. Buongiorno. Che. Io mi lancio, ma non sono molto sicura. Caffè concerto. Non è caffè concerto. Non è caffè. È più facile. È più facile, sì, in un certo senso sì, anche se in qualche modo c'entra con la canzone, però è ancora più attinente. Grazie Angela, mi dispiace. Grazie a voi, buongiorno. Anna dalla provincia di Milano, buongiorno Anna. Buongiorno. Allora, la canzone era Musica è, Ramazzotti. E qual è, potrebbe essere il titolo dell'opera di Picasso? Ce ne sono così tante, comunque vabbè. È vero, però sì. Musica è. Io ci provo. Sì, provaci, Anna. Strumenti musicali? No. No. No. Grazie, Anna. Prego, ciao. Grazie a voi. È l'ultima, chiudiamo con Domenica da Cremona. Domenica. Buongiorno. Buongiorno, ciao. Allora, Domenica. Si pensava. Guarda. Con chitarra? No, l'abbiamo fatta l'altra volta. Era uno dei, una delle, delle opere della, della settimana scorsa. Mi dispiace, no, c'è Maria da Bologna, con la quale chiudo. Ciao, grazie a te, Maria. Buongiorno a tutti. Ciao Maria, guarda, pensaci bene, è una parola sola il titolo di questa opera di Picasso. Una parola sola. Potrebbe essere la musa. Non è la musa, mi dispiace. Ciao, okay. Maria, ciao, grazie, ciao, ciao. Ma devo dire. Devo dire qual è la soluzione, ovviamente. Era musicista, era facile. Vabbè, la musica sono i musicisti. Che rabbia, vabbè. Si torna domenica prossima con ovviamente ancora cataloghi, biglietti e poi l'ultima puntata con il viaggio a Malaga per due persone. Grazie a tutti per aver seguito il riposo del guerriero. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, Paolo Correoni in regia, ovviamente a voi. E ci sentiamo domenica prossima alle 10. Ancora buona settimana da Stefano Gallarini.